Eccoci qua, nuova puntata di Passaggio a Nord-Ovest, la rubrica di Radio Wombat che parla appunto di quello che accade, di quello che succede, di quello che c'è nel quadrante nord-ovest della nostra città e che va in onda tutti i lunedì alle 14.30 e in replica dal martedì al venerdì sempre alle 14.30, chiaramente dalle frequenze M1359 di Radio Wombat e altrettanto chiaramente la potete ascoltare in streaming come magari la state ascoltando adesso andando, perché siete andati sul sito wombat.noblox.org e appunto la state ascoltando in streaming. Ricordiamo anche che Passaggio a Nord-Ovest, così come tutte le rubriche di Radio Wombat, ha i propri podcast da cui è possibile appunto andando nel primo menu del sito wombat.noblox.org, menu a sinistra, un menu a tendina, ci sono elencate in ordine alfabetico tutte le trasmissioni di Radio Wombat e conseguentemente anche Passaggio a Nord-Ovest. E cliccandoci sopra si apre la pagina e potete ascoltare tutte le trasmissioni di Radio Wombat, in questo caso di Passaggio a Nord-Ovest, potete ascoltare direttamente oppure scaricare e ascoltarvele successivamente quando volete. L'email della radio è postawombat@insiberia.net, l'account Twitter è twitter.com/radiowombat.fi. E siamo qui con Enrico, partiamo da un discorso di carattere generale che è possibile vederlo, diciamo visualizzarlo proprio da un punto di vista la spiegazione di tutti i vari passaggi e anche di tutti i vari Urban Nature Tours, perché infatti ci riferiamo al sito Urban Nature Toscana in cui varie persone, diciamo un sito aperto, no? Assolutamente, salve, sì, assolutamente. Un sito aperto in cui vengono inseriti da parte appunto di chi partecipa a questi tour urbani che nello stesso momento, appunto come c'è scritto nel sito, sono percorsi di urban trekking che prevedono camminate esplorative durante le quali vengono illustrate risorse naturalistiche ma anche paesaggistiche e culturali che si incontrano. Buona parte di questi Urban Nature Tours sono, pur essendo appunto in Toscana, riguardanti tutta la Toscana, sono nella zona di Firenze e due in particolare nella nostra zona. Ecco, vi chiedevo un approccio, ecco, un'introduzione un po' generale a quelle vogliono essere questo sito e comunque questi Urban Nature Tours e il suo aspetto didattico e più in generale di cosa parlano questi tour, ecco. Sì, grazie mille a Radio Wombat per potermi dare l'occasione di parlarne. È un'idea molto personale. Urban Nature Toscana è un sito web, un fotoblog con annessi tour di urban trekking che sviluppo a livello personale, a volte con l'aiuto di qualche amico e appassionato di urban trekking o di natura, e che però durante il percorso sono riuscito a coinvolgere anche alcune scuole, associazioni, e soprattutto per cercare com'è nell'intento di questo piccolo blog, di cercare di far avvicinare la natura da parte dei più giovani, non solo ovviamente, ma soprattutto da parte dei più giovani, quindi ai giovani scolaresche o ai giovanissimi che vanno a giro magari con nonni o con i genitori, anche da soli, e cercando un approccio diverso e quindi volutamente prendendo in considerazione lo smartphone e non una macchina fotografica professionale, ma lo smartphone come strumento che può servire per acquisire foto o anche suoni nella natura. una natura che in Toscana, come si sa, siamo fortunati, e che in maniera abbastanza curiosa, questo succede un po' in tutto il mondo, c'è questo fenomeno di avvicinamento degli organismi naturali, in particolare degli animali, in ambito urbano, per cui oramai lupi, cinghiali, specie di uccelli che prima erano riconducibili a pochi e che invece ora sono tantissimi, che frequentano abitualmente o sono di passaggio in ambito urbano. Pensate, per restare in ambito locale, ci sono dei video che io sto cercando di renderli pubblici in qualche maniera. Ci sono dei video realizzate dalle cosiddette fototrappole in cui si vede accolonnata lupi, cinghiali, daini scorrazzare allegramente ma a pochi metri dalle case dei centri abitati. Ormai questa presenza animale comincia ad essere veramente interessante e Urban Nature Toscana cerca di far aprire gli occhi alle persone che viceversa camminano normalmente in ambito urbano e sono sempre ripiegate su se stesse oppure sul proprio cellulare, e dire guarda, guardati attorno, perché magari incontri una garzetta sul rimaggio o un gheppio, che sarebbe un falchetto in volo sopra l'oliveta, e magari con il cellulare, se sei fortunato, riesci anche a scattare una foto o, che ne so, a registrare un verso particolare. Sul Urban Nature Toscana quindi potete trovare abbastanza numerose foto riprese in ambito urbano di specie animali e vegetali e poi delle proposte appunto di camminata in ambito urbano che ho chiamato Urban Nature Tours, ovvero l'invito a spostarsi proprio anche per finalità pratiche a piedi e non con altri mezzi e osservando la natura. Ecco, prima appunto della trasmissione mi ha fatto vedere questa serie di codici in cui basta puntare lo smartphone e indica il percorso da fare, no? Sì, ho realizzato degli adesivini, delle sorte di francobolli adesivi con la tecnica del QR code. QR è un acronimo che sta per Quick Response, quindi risposta immediata, pronta, perché praticamente sono quei quadratini in bianco e nero che sembra quasi un puzzle, un arabesco, però se inquadrati con lo smartphone possono essere convertiti, che ne so, in un indirizzo di un sito web, in un indirizzo di un video, e in questo caso nell'indirizzo di Urban Nature Toscana. L'ho realizzati in particolare due, uno con un aerone sullo sfondo, perché poi c'è questa particolarità che possono essere realizzati anche con un logo, diciamo un'immagine di sfondo, e che rappresenta gli Urban Nature Tours, e uno in particolare che rappresenta l'Urban Nature Tour del Rimaggio, perché è particolarmente interessante il Rimaggio da un punto di vista naturalistico. Ecco, prima ti avevo chiesto appunto la possibilità, quindi c'è questa, il sito diciamo è open, è aperto, no? Assolutamente, c'è anche una parte che si chiama Partecipa, in cui si invita a mandare i propri contributi, se pesanti, attraverso meccanismi come WeTransfer o Dropbox, per poter partecipare al blog, oppure anche per diventare redattore del blog, volendo, o per proporre dei percorsi. È assolutamente aperto. Per ora ho raccolto solo qualche amico, diciamo, che ogni tanto mi manda qualche foto, a volte realizzate proprio anche con macchine fotografiche, invece che con smartphone, dipende. Ma per il resto, se no, è tutta produzione personale. Però diciamo che in questi 2 anni, perché l'ho iniziata appena il 1 gennaio 2016, questa attività, così proprio per passione personale e basta, niente professionale, e ho raccolto varie adesioni, per cui sono riuscito a fare diverse girate, diciamo una decina, a scuole, scolaresche, associazioni di vario tipo, e 3 o 4 volte anche con un gruppo di giovani disabili di Sesto Fiorentino, hanno particolarmente apprezzato l'esperienza, il gruppo Cappero, così si sono chiamati simpaticamente, che mi piacerebbe riuscire a replicare in futuro, perché poi appunto è un'attività che, se per certi versi, può sorprendere positivamente. Uno fa il rimaggio tutti i giorni, però lo fa a capo basso oppure spippolando sullo smartphone, e viceversa, si alza il capo e si guarda attorno, scopre che magari è pieno di piante e animali sorprendentemente belli da osservare, se piace ovviamente la natura, è chiaro. Ecco, qualcuno alzando il capo stava un po' scorrendo le immagini, i percorsi, cioè grecce di pecore. E qui mi sembra sia polo scientifico, nel senso che al di là del percorso dà anche uno spaccato comunque di quello è l'incontro o lo scontro su certi aspetti tra la campagna e la città, e quindi un'urbanizzazione eccessiva della campagna, e nello stesso momento comunque tutta una serie di mestieri e comunque di avvenimenti, di passaggi, diciamo, dettati dalla natura, o comunque dagli animali, dagli arbusti, dagli alberi, dalle piante, che comunque resistono. Che qui appunto c'è questo gregge di pecore, sì, polo scientifico. Anche a me, e quindi ecco un po', dà anche un po' l'idea di questo rapporto, diciamo, tra città e campagna. Certo, lo dà in una forma fotografica in questo caso, però diciamo su cui, ecco, si sono sarebbero da fare ulteriori riflessioni al di là di quelle, diciamo, strettamente naturalisti, ma anche, diciamo, da un punto di vista urbanistico, ecco, da questo punto di vista. Sì, a me anche quella è una delle foto che preferisco, perché diciamo che privilegio le immagini, e poi dice le immagini sono solo immagini, sì, ma le immagini spesso comunicano molto più di un testo, suggestionano, e quindi comunicano, e cerco sempre di cercare immagini in cui ci sia questo connubio fra natura e intervento umano, e quindi magari anche mestieri legati al contatto con la natura, come può essere i pastori. E quella è una di quelle che vado più fiero, ma non perché sia realizzata benissimo, ma perché rende l'idea di come a volte in ambito urbano si può fare degli incontri sorprendenti, per cui il pastore preso da dietro, il classico ombrello da pastore, come ormai se ne vede pochi, il greggio di pecore in quel appunto della piana fiorentina, lì siamo poco dietro il polo scientifico, che fra l'altro poco tempo fa ha organizzato una bellissima mostra sugli animali presenti nella piana fiorentina. Ciao, ti ricordi? Hai un elenco, ti ricordi? E dunque, era una mostra fotografica, in realtà non troppo ampia, ci sarà stata una ventina di rappresentazioni di foto, però mettevano anche a disposizione una selezione di libri e riviste molto interessanti in tema, essendo appunto realizzata nella biblioteca di Polo Scientifico, perché appunto, come ben si sa, c'è una grande attenzione nella piana, per cui non si sa cosa vogliano fare, non si sa se e come lo faranno, però anche questo discorso, per esempio, degli spostamenti che hanno ipotizzato dei laghi nella piana fiorentina per poter realizzare il nuovo aeroporto, è una questione che ovviamente impatterà in maniera drammatica e significativa sull'ecosistema e la biodiversità. Ecco perché poi la biodiversità è l'altra parola chiave di questo blog. Se il territorio è ricco è perché è vario, quindi gli organismi viventi sono presenti in maniera numerosa e varia. La diversità è sempre un valore in natura così come nella società, e la biodiversità della piana fiorentina è una cosa sorprendentemente bella. Ci sono i fenicotteri rosa, c'è Cavalieri d'Italia, che è un'altra specie bellissima di volatile che si può osservare nella piana, e addirittura ci sono di passaggio degli uccelli che sono rarissimi, comprese quelli ibis neri che sono a volte guidati da deltaplane a motore nel loro trasferimento, perché sì, perché sono proprio lì nella piana, ecco. Sì, sono passati anche nella piana, l'hanno fotografati, Per cui il rapporto fra uomo e natura, figuriamoci, a nord di Firenze, e questa trasmissione lo sa benissimo, è un punto chiave di svolta nei prossimi anni. Poi non si sa se faranno quello che vogliono fare. Ora leggevo, nei giorni scorsi hanno scoperto che non hanno fatto la vasca di contenimento per il vecchio aeroporto e si sono attivati a livello formale per verificare come mai. Per cui figuriamoci se riusciranno a fare tutte le opere che hanno previsto per il nuovo aeroporto, visto che non hanno realizzato le cosiddette opere di compensazione, diciamo quelle che dovrebbero essere obbligatorie prima di procedere alla costruzione dell'aeroporto. C'è anche, per esempio, previsto l'interramento dello snodo viario, e lì è veramente un coacervo che già sotto certi aspetti ha distrutto una parte della piana, insomma. Sì, un piano veramente molto impegnativo, però per quello che riguarda e interessa la trasmissione di oggi, che può, ahimè, impattare sul livello di biodiversità offerta del territorio locale. Se ora è vero che la piana è un po' bistrattata, però è ricchissima di tante specie diverse, volatili, anfibi, di tutti i tipi, cosa succederà quando si chiuderà i laghi e se ne faranno di nuovi? I migratori accetteranno questo cambiamento oppure abbandoneranno l'area come terreno di riposo per poi ripartire? Sono tante le incognite, e comunque camminare, non per buttarla troppo sul filosofico, ma insomma camminare e vivere il territorio è sicuramente una maniera per prenderne coscienza, apprezzarlo o criticarlo e comunque prendere consapevolezza, insomma. Ecco, e per rimanere ancora più nel nostro specifico, qui c'è un elenco dei percorsi, appunto, di Urban Nature Toscana, un elenco che riguarda proprio la zona nord-ovest di Firenze. Uno è sempre nel comune di Firenze, però appunto proprio nella zona nord-ovest, quadrante nord-ovest, le ville a nord di Firenze, altri quattro riguardano Sesto Fiorentino, e quindi proprio sempre nel quadrante, diciamo, della nostra metropoli, la parte nord-ovest, e sono elencati Rimaggio e dintorni, Etruschi e Solari, Circolare Verde, Biblioteca Ragionieri, Casa del Popolo a Monte di Sesto. Ma in particolare, ecco, quello che mi sembra più significativo e quello più commentato e quello più curato è quello riguardante Rimaggio e dintorni. Ecco, ce lo puoi spiegare un po', sia come è stato ideato, sia come è percorso, ecco. Il Rimaggio è un percorso a sé stante, che però si collega anche ad altri percorsi, che poi cercherò di spiegare brevemente, se possibile. Però il percorso a sé stante del Rimaggio è particolarmente interessante da un punto di vista naturalistico. Diciamo che la parte interessata, evidenziata da questo percorso di urban trekking, è quella che va dalla piazza del Mercato a Sesto Fiorentino fino a piazza Rapisardi a Colonnata. E fortunatamente il consorzio di bonifica qualche anno addietro l'ha ricondotto nel suo alveo, nel suo percorso naturale, diciamo, il Rimaggio, ovvero prima era un torrente incastrato in un canale stretto e veloce di calcestruzzo, mentre invece hanno spaccato tutto e hanno ricreato un percorso naturale in maniera tortuosa. Questo ha permesso la ricrescita di tantissime piante, fra cui citare il farfaraccio, che è una pianta grandissima che in passato veniva utilizzata dalle persone locali per incartare il formaggio, oppure il cappero, che ha un fiore bellissimo, fra i più belli del mondo. C'è anche la passiflora, mi sembra. Poi la passiflora, il fiore della passione. Questo come punto di vista, diciamo, di flora. Poi da un punto di vista della fauna si può aprire un capitolo enorme, perché ci ho trovato un'impronta che non è confondibile con altre, di tasso, che è un predatore, sembra un cane grande, diciamo, bianco e nero, e che mangia un po' di tutto, mangerebbe anche noi se potesse. E ho trovato una classica impronta di tasso, oppure si vede normalmente una serie di aironi, fra cui l'Arone Bianco Maggiore, la Garzetta, sono entrambi bianchi ma di dimensioni diverse, e l'Arone Grigio Cenerino, comunissimo, la Nitticora, e rapaci come il Gheppio. Ma cioè, è veramente ricchissimo. E uno fa una mezz'oretta di cammino da mezz'ora piazza, quanto è lungo? Mezz'ora da piazza di mercato. Poi chiaramente se uno si sofferma ogni 10 metri a osservare qualcosa, perché poi bisognerebbe anche cercare di riuscire una capacità di osservazione. Io ci ho visto un serpentello in acqua, ci ho visto dei gamberi sul rimaggio, dei gamberi, anche se la specie aliena è il gambero rosso, quella invasiva. E si può, se uno si prende il suo tempo, può osservare tante cose, per cui ci può stare anche una giornata a fare da piazza del Mercato a Sesto a piazza Colonnata, però pur con il piacere di osservare, diciamo in una mezz'oretta è un percorso che fai agevolmente. Tra l'altro io ho pensato anche una circolare, e in quel senso l'ho collegata a altri percorsi, sempre di Urban Nature Tours. L'ho collegata al percorso che porta alla biblioteca di Doccia, che è un punto naturalistico particolarmente pregiato perché ci hanno edificato una specie di rondine molto rara che riparia, il nome latino, che però in italiano si chiamano topini, perché è una rondine tipo un balestruccio che però fa come abitudine il nido nei mucchi di terra. Alla biblioteca di Doccia, a Sesto Fiorentino, un'ala ancora la devono ristrutturare e quindi hanno lasciato dei mucchi di terra e di sabbia. Lì ci hanno fatto i nidi questa rarissima specie di rondine, i topini, riparia. E dalla biblioteca di Doccia ho fatto appunto questa circolare, di cui un pezzo anche il rimaggio, che poi si ricollega al Parco degli Etruschi, più a sud, e poi riprendo un pezzettino del centro storico, che mi è stata anche linkata ufficialmente dalla biblioteca di Sesto. Se andate sulla biblioteca di Sesto e andate sul link come arrivare alla biblioteca, trovate il link all'Urban Nature Tour Circolare Verde Biblioteca Ragionieri, per cui diciamo che possono essere utilizzati questi percorsi anche per sbrigare delle incombenze di viabilità appunto normale, capito? Invece di andarci in macchina o in motorino, uno si prende un quarto d'ora in più, una mezz'ora in più, ma spesso anche meno, un quarto d'ora in più, e però ha un rapporto piacevole con il territorio, assolutamente piacevole. Ecco, flora, fauna, ma anche alcuni edifici storici, in particolare edifici storici che poi sono anche importanti dal punto di vista sociale, cioè l'Unione Operaia Colonnata, l'edificio dell'Unione Operaia Colonnata, e anche la Fornace di Falce. Sì, la Fornace di Falce è particolare come storia, una storia abbastanza romantica, diciamo, perché praticamente la mettono in piedi per cuocere le pietre della cava d'Isola, che è sempre una cava qui in zona, e in realtà non parte mai, perché nel frattempo muore. Quando è stata costruita? Ti direi negli anni 50. Dopoguerra. Sì, archeologia industriale. Non viene buttata giù perché comunque è bella da vedersi e comunque è considerata archeologia industriale. La Fornace di Falci non entra mai in funzione. Viene costruita e non entra mai in funzione perché muore chi l'aveva promossa, diciamo, e quindi rimane lì. Non ci si può per ora avvicinare, almeno credo, cioè entrare dentro. Però credo sia assolutamente un ospite di tante specie, più che di flora, di fauna particolare, sospetto. E ci possono fare nidi svariati uccelli, così come forse anche i pipistrelli, tanti rettili, insetti e via dicendo. E poi ovviamente c'è tutta la parte della casa di popolo, cominciare da quella di Colonnata, ma anche Querceto, Quinto Alto. Ho fatto un tour anche che le collega, perché sono appunto posti ancora interessanti da vivere socialmente, comunque pieni di testimonianze storiche. Se uno entra dentro la casa di popolo di Colonnata, sai bene, sembra di fare un tuffo di passato. Insomma. La libera Repubblica di Colonnata. e fra l'altro l'hanno anche ristrutturata, ci hanno rifatto tutto l'intonaco, il tetto, insomma. E il 27 maggio, ve la butto lì come anticipazione, ci dovrebbe essere una bellissima giornata sull'ambiente alla Casa del Popolo di Colonnata. Poi farò per il programma. Che è domenica. Che è una domenica, sì. E ci fermiamo un attimo, e ci sentiamo un pezzo musicale, sono Le Four No Blonde, What's Up? 5 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Eccoci qua, dopo ci siamo sentiti, WhatsApp, loro erano questo gruppo di donne che oramai è sciolto, Forno Blonde, e siete sempre all'ascolto di Radio Wombat, e in questo caso nello specifico di Passaggio a Nord-Ovest, la trasmissione appunto di Radio Wombat che parla di quello che succede, di quello che c'è, di quello che accadrà nel quadrante nord-ovest della città. E stavamo parlando appunto di questi urban nature toscana, ricordiamo lo spelling un po' meglio, ecco, del sito. Urban nature toscana.wordpress.com. E da lì che l'home page, poi potete andare a tutte le varie sezioni, fra cui quella appunto dei tour, dei trekking naturalistici in territorio urbano, e dopo quello detto il 30 di maggio e dintorni, a cui è già stato dato una spiegazione e a cui appunto si collegano altri piccoli tour sempre nella zona di Sesto, in particolare sto menzionando la circolare verde Biblioteca Ragionieri e quella dell'Asse del Popolo a Monte di Sesto, ce n'è un altro altrettanto significativo, e cioè le ville a nord di Firenze. Dall'introduzione si legge: un tempo erano dimore in piena campagna del signore, dove andavano per l'appunto a villeggiare, ora lambiscono le aree urbane e sono sedi di prestigiose attività culturali e vi si trovano opere d'arte incorniciate da giardini e parchi. E ecco, una spiegazione anche di questo, sia come percorso sia anche come è stato costruito, ecco. Sì, anche qui è venuta fuori un'idea, diciamo, per amore dei contrasti, per cui meno male la periferia nord viene sempre considerata come il luogo... La più industrializzata, sì, esatto. Per quanto riguarda la metropoli fiorentina. La più industrializzata, quindi sarebbe detto fino agli anni 70, dove c'erano più proletari o comunque, insomma, in aree urbane più problematiche. È buffo che se uno prende coscienza da queste periferie, un tempo pensate problematiche, comunque tuttora molto urbanizzate, uno può, diciamo, come ho scritto nel titolo, andare per ville e quindi fare questo percorso che coinvolge principalmente le ville di Castello, la Petraia e la Quiete, e che sono ricche di storia, di natura. La Villa di Castello occupa l'Accademia della Crusca, e poi ce n'è tantissime altre come la Villa Corsini, che comunque si costeggia con il percorso, oppure la Villa di Bel Riposo, dove c'è passato Carlo Lorenzini con l'Odio, con il Pinocchio. Si sa che il Sesto Fiorentino è la patria per certi versi di Pinocchio, no? Sì, infatti c'è anche un percorso. C'è anche un percorso Pinocchio, bravo, sì, infatti. E poi la Villa Medicea La Petraia, bellissima anche per la sua posizione panoramica, e fra l'altro ci fa rendere conto di come è organizzata il tessuto urbano sottostante. Ovviamente ville ricchissime di opere d'arte, perché erano dimore di veri signori e nobili di un tempo, come i Medici, Lorena, i Savoia. La Villa di Quarto, la Villa La Quiete, dove è stata riorganizzata di recente l'esposizione delle opere d'arte, dove si trova dipinti del Ghirlandaio e del Botticelli. Fra l'altro, ora non sono un esperto, ma anche il Ghirlandaio mi sa che deve i suoi natali a Sesto Fiorentino. Questo sinceramente indagheremo. Non lo so, indagheremo, però sicuramente, e questo è un inciso, è che c'è stato un passaggio un po' contraddittorio, per dirla in termini eufemistici, perché appunto queste opere, in particolare da De Botticelli, mi sembra, sono state riscoperte recentemente, ma però ecco, c'è stata questa particolarità che un rimpallo di responsabilità fra i vari enti, locali, per cui c'erano queste opere, non venivano esposte e a un certo punto veniva paventato ed è stato sventato, diciamo, da un intervento sotto un certo aspetto anche popolare, diciamo, una sorta di controllo popolare da parte degli abitanti del quartiere, che ha sottolineato la possibilità che Villa La Quiete venisse privatizzata e insieme alla sua privatizzazione anche la vendita di questi dipinti che non erano mai stati esposti e di cui non se ne sapeva bene né la, come dire, la proprietà, neppure diciamo, erano rimasti in un limbo sia da un punto di vista della proprietà sia da un punto di vista della classificazione della collezione, via dicendo. Poi è stato scoperchiato, diciamo così, questa contraddizione e le istituzioni sono dovute fare marcia indietro e quindi no alla privatizzazione, alla vendita, alla svendita di Villa La Quiete e conseguentemente anche la messa in vista, ecco, tolto dai magazzini della villa di questi dipinti del Ghirlandaio e dei Botticelli. Ma tra l'altro queste ville sono importanti anche per i giardini, ecco. Giardini bellissimi, tenuti anche abbastanza bene e di nuovo con presenze floreali fantastiche, quelle dovute alle piante, ai fiori, gli alberi che appunto queste famiglie nobili o comunque chi ha gestito le ville nei secoli hanno piantato, e quindi ci sono delle presenze anche molto esotiche da un punto di vista floreale. E poi da un punto di vista di fauna, degli animali, come al solito risente, diciamo, di un aspetto positivo di questa zona specifica, per cui ci abbiamo a monte Monte Morello, per l'appunto, e a valle tutta la piana dello Smannoro. Anticamente queste due zone erano ricchissime da un punto di vista naturalistico, di specie legate alla montagna, diciamo, collina, montagna e Monte Morello, e legate viceversa alle zone palustri dello Smannoro. Per cui, essendo una linea di confine, siamo ricchi di presenze, siamo ricchi di biodiversità, come in tante altre regioni e in posti d'Italia o anche del mondo non hanno. E questo, visto che... Che specie ci sono in particolare? Istrici, tantissime. Ora l'istrice in zona più a sud di Firenze, ma penso ci sia anche l'istrice, però da un punto di vista dei mammiferi sicuramente ha fatto scalpore il ritorno del lupo, ma del lupo in maniera certa, non ibridi su Monte Morello. Su Monte Morello, ma fino a Colonnata, fino alle pendici proprio dell'ambito urbano, ormai il lupo non ha più paura. Ora gli ibridi ancora di meno, e gli ibridi sono in effetti un po' un problema, perché ora c'è questa moda di avere questi cani, tipo i cani pastore lupo cecoslovacco o specie simili, che sono veramente molto simili al lupo. Poi magari uno se ne stanca perché non riesce più a gestirle, l'abbandonano e poi rischiano di ibridarsi col lupo. Nel momento in cui vengano fuori gli ibridi davvero non hanno paura dell'uomo, e quindi possono crearsi diciamo delle situazioni un pochino imbarazzanti. Viceversa, il lupo, quando è nella sua purezza, diciamo, genetica, ancora mantiene un po' di diffidenza dall'uomo, però ormai si avvicina in maniera sorprendente, per cui non si può più parlare oggettivamente di Monte Morello. Bisogna parlare ad esempio di Colonnata, presenza di lupo a Colonnata, ripreso da fototrappole indiscutibilmente, e lupi che sbranano daini e frequentano ugualmente il territorio, per cui ungulati, animali rapaci, volatili, soprattutto fra gli uccelli c'è miriade di presenze, alcune anche particolari. Ci sono questi pappagalli che oramai stanno incominciando a colonizzare ampie zone anche della Toscana. se qualcuno li vuole vedere in maniera stabile può andare al Parco di Neto. Il Parco di Neto ormai è ricchissimo di pappagalli, e così come le cascine a Firenze, per dire. E ormai c'è questa capacità degli animali di adattarsi all'ambito urbano, che è una capacità simpatica. Le rondini a Sesto e fanno il nido accanto ai negozi di barbiere lì di Via Verdi. Uno ci fa caso, entra dentro il portico e vede le nidi delle rondini, e vede uno degli uccelli più belli del mondo, come colori e grazia, e che fa le nidi a 2 metri da terra e a 2 metri dalla strada. Un altro punto particolare è davanti alla farmacia del centro di Sesto, quella proprio in via Gramsci, la Ragionieri, dove c'è un palazzo che ha sempre aperto il portone. Ecco, nel corridoio che conduce al palazzo ci sono 6 o 7 nidi di rondini, altezza di 1,5 metri, che entrano e escano dal portone e fanno acrobazie in mezzo al traffico veicolare, perché chiaramente via Gramsci è trafficatissima, e per cui oramai c'è questo connubio fra natura e ambiente urbano che secondo me andrebbe sottolineato maggiormente. E appunto, vi ricordiamo il percorso, questo sono il percorso delle ville, andare per Ville a nord di Firenze, Parco e Giardino, Villa Reale, Villa Medici alla Petraia, Villa La Quiete, che sono quelle più importanti, le più conosciute, ma nelle vicinanze ce ne sono altre, in particolare Villa Corsini, ma anche Villa Il Gioiello e altre. Da questo punto di vista segnalo anche una carina, bella iniziativa promossa dal Centro Sociale Alto Gestito Next Emerson per il 13 maggio prossimo, e che è appunto una passeggiata con guide gratuita, con partenza dal circolo di Castello alle 14:30, quindi domenica 13 maggio alle 14:30, per una visita di guidata, in questo caso Villa Corsini, Villa Petraia, e poi successivamente ci sarà anche Villa Medici di Castello. Ecco, sono divise in due parti proprio perché c'è molto da vedere, e il tempo a disposizione, proprio perché ci hanno degli orari di chiusura, molto di apertura chiusura abbastanza ristretti, non permette di vederle tutte insieme, a meno di non farlo il fiatone tutte e tre insieme, e quindi una prima gita, una prima visita, una prima visita guidata, una prima passeggiata guidata, ricordiamolo, il 13 maggio dalle 14:30 in partenza dal circolo di Castello. Ecco Enrico, ti volevo chiedere, ce ne sono altri in Italia dei siti di questo genere, oppure questo, diciamo, c'è proprio specifico, caratteristico? Ma non ce n'è tantissimi, diciamo che il WWF, curiosamente, il termine Urban Nature l'ha ripreso da qualche tempo per fare iniziative di carattere nazionale, divulgative, per fare appunto scoprire la natura in città. Dopodiché di percorsi in città non ce n'è ancora tantissimi, perché è ancora, diciamo, è un territorio da esplorare. Se uno gli piace camminare o gli piace la natura, anche giustamente va in campagna, va in montagna o quant'altro. Ma secondo me è un aspetto educativo e culturale molto importante, quello appunto di cercare di osservare il territorio, e quindi, come hai spiegato te in occasione delle opere d'arte da rivalorizzare per le ville a nord di Firenze, magari anche con iniziative popolari, come quella bellissima iniziativa il 13 maggio. Ripetiamo il sito urbannaturetoscana.wordpress.com, e ecco, sono previsti altri inserimenti di percorsi nella zona o comunque in generale a Firenze? Ma il percorso, anche se non sembra, ma è abbastanza faticoso da realizzare. Siccome lo faccio come interesse amatoriale, ma non lo so se ne riuscirò a idearne altri o se magari altri me ne proporranno di fare. Viceversa, dal punto di vista di fotografie, come vedi, le faccio spesso, tutte le volte che posso. Fra l'altro, da questo punto di vista, se posso menzionare un'iniziativa tecnologica interessante dell'Accademia delle Scienze della California, che ha realizzato un'app interessantissima che si chiama iNaturalist e che funziona egregiamente, se no non ve la segnalerei. Per cui diciamo che sfrutta quel procedimento tecnologico che si chiama reverse image search, per cui se io vado a giro e faccio una fotografia, poi posso aggiungere una osservazione, la chiamano loro, fra l'altro c'è traduzione in italiano fatta benissimo, sia dell'interfaccia che delle specie vegetali e animali da mettere. Nel momento in cui faccio, che ne so, la fotografia di un fiore, di una farfalla, però non so che fiore e farfalla è, loro mi propongano specie simili a quelle che ho fotografato. Lo fanno con grandissima accuratezza e precisione, e per cui è utilissimo da utilizzare per riconoscere gli organismi in natura. E una volta che si mette online la propria foto, ha una valenza scientifica molto utile perché la foto, essendo realizzata con le moderne macchine fotografiche o con gli smartphone, di solito ha due dati, anche se non appaiano esplicitamente, sono la data in cui è stata realizzata la foto e il geoposizionamento e la località. Quindi non è solo importante che io abbia fotografato una rondine, ma è particolarmente importante poi rendere noto alla comunità degli appassionati scientifica internazionale che ho fotografato una rondine in quella data, in quel posto. Bellissima, iNaturalist, veramente provatela. Ecco, siamo giunti alla fine di questa puntata di Passaggio a Nord-Ovest che ha trattato quelli che sono i percorsi urbani, nello specifico nella nostra zona, diciamo nel Nord-Ovest di Firenze, e con una visione un po' più allargata all'area fiorentina e più in generale alla Toscana. Ricordiamo Passaggio a Nord-Ovest, l'ascoltate in streaming, così come Radio Wombat, tutte Radio Wombat, tutte le trasmissioni Radio Wombat, sito wombat.noblogs.org, la potete ascoltare anche sulle frequenze onde medie AM 1359, in particolare, perché non è che ci sia questa grande potenza, ma in particolare nella zona nord-ovest della città, quindi magari anche alle ville di Medice, di Castello, sui Torrente di Maggio, al Parco dell'Oliveto a Sesto. Ecco, in questi posti si dovrebbe sentire abbastanza bene, e tra l'altro vi do anche l'indirizzo di posta elettronica, posta bomba@chiocciolasiberia.net, a cui potete magari anche osservare, farci sapere dove la sentite, dove l'avete sentita, il grado, diciamo, di interferenze ci sono, e via dicendo. E niente, vi salutiamo. Grazie all'ospitalità e buon proseguimento. Ciao ciao.